Rassegna eventi. Buonasera e bentornati alla settimanale rassegna degli eventi del Wombat. Siamo qua, dalla nostra postazione. Yeah. Benvenuto Lafo, benvenuto Grippo. Grazie Grippo. Andiamo velocemente a raccontarvi che cosa succederà a partire da martedì 27 febbraio. Cioè domani. Il collettivo Nuovo Rumori e il CSA Next Emerson si gettano prepotenti all'inizio della settimana per dimostrarvi che i punks possono divertirsi anche di martedì. Dalle ore 22 precise, mi raccomando. Sick Time and Punk SWAT. Anti-punk SWAT. Dalla Deutschland. Bug Attack, punk hardcore one man band, wow. Sempre dalla Germania. Sentore del Maligno, robot punk da Firenze. Il giorno successivo, mercoledì 28 febbraio, alla Polverera Spazio Comune, a partire dalle 5:30, aperitivo e dibattito sul consenso, organizzato da studenti di sinistra e non una di meno, che vi invitano a questo aperi dibattito sul consenso per ricostruire insieme un significato comune, sovvertendo la narrazione dominante nell'accogliente Polverera Spazio Comune, ad arrivare insieme preparati all'8 marzo. La rivoluzione è femminista o non è? Dalle 5:30 inizia il dibattito, introdotto e coordinato da Margherita Picchi e di Gender Studies, e alle 7:30 l'aperitivo d'autofinanziamento. Sempre mercoledì 28 febbraio, presso l'occupazione Viale Corsica, alle ore 18 c'è una fericena, più alle ore 21 la presentazione del libro Contrade, storie di Zed e Notav, edizione Tabor, Valsusa, con il collettivo Mauvaise Troupe. Dalle lotte contro l'aeroporto di Notre Dame de Land ai movimenti contro l'alta velocità in Val di Susa. Vite e territori in subbuglio si raccontano. Vinceremo qui e altrove, vinceremo anche contro noi stessi, contro ciò che talvolta fa di noi non molto più che dei tristi amministratori dell'esistente. Vinceremo disputando a pietrate pezzi del territorio. Si disputando a pietrate pezzi del territorio alla polizia, gettando lampi di luce negli occhi appannati della vita, e via discorrendo. Facciamo così. C'è l'evento, tutto scritto. Dalle ore 18 in Viale Corsica. Il giorno successivo, siamo al giovedì 1 marzo, perché febbraio ha 28 giorni, sapete bene, allo spazio IAM, alle ore 21, Fiesta Latina. E via. Per poi andare a Fiesta... Per poi andare a venerdì 2 marzo, che c'è la grande festa di Agraria, organizzata dal collettivo di Agraria, e serve a festeggiare la fine della sessione di esami con una bella festa benefit in aula Murales. Dalle ore 22:30, live Stone Mother, DJ set, Inner City Jungle, che è DMB, Malkut, Acid Mental Techno. Bar a prezzi popolari, naturalmente, lascia il vetro a casa, cibo dalla fattoria senza padroni, mondeggi, bene comune, supporta il collettivo e rifiuta le liste studentesche legate ai partiti. Vieni a conoscerci e partecipa in prima persona a migliorare la vita universitaria nel polo di Agraria. Sempre venerdì 2 marzo, invece, però nel pomeriggio, alle 4:30, allo spazio Inchiostro, si tiene l'assemblea antifascista con la presentazione di Storia di Ordine Nuovo. Assemblea nell'ambito delle assemblee antifasciste organizzate dalla rete dei collettivi fiorentini, appunto la presentazione di Storia dell'Ordine Nuovo insieme all'autore Elia Rosati. E poi passiamo a sabato 3 e domenica 4 con l'evento We Want the Airways Back, 2 giorni su Radio Frequenze Liberate a cura di Radio Wombat, cioè noi. Sabato 3 marzo CSA Next Emerson. Il programma si svolge dalle ore 20 con una cena, benefit per Radio Wombat, alle ore 21 la proiezione di Boconas, che è la storia di Radio Deseo e delle Mujeres Creando della Bolivia, e a seguire un live e on air dei CCC, CNC, NCN, rafting sonoro delle correnti elettromagnetiche. Portate una radiolina, mi raccomando, che prenda anche AMMV. A seguire Bad Girl, radiazioni spaziali e note date, macchine, pedali ed MP3. per poi andare avanti con domenica. Sì, volevo ricordare anche lo stesso giorno, 3 marzo, prima di andare a domenica, sempre sabato, ma in pomeriggio alla libreria Majakowski si presenta L'albero del peccato di Giorgio Panizzari con Pasquale Abatangelo che coordina l'incontro. Bene, domenica 4 marzo, presso la Polveriera Spazio Comune, dalle 15, workshop Amate Frequenze, il radioascolto spiegato a chiunque, e poi dibattiti e racconti, le nostre radio, storie di radio pirate e frequenze liberate, con la partecipazione di Radio Onda Rossa, 87,9 FM a Roma, Radio Blackout, 105,225 Torino, Radio Onda d'Urto, Bresciana, Radiogramma Genovese, Radio Morgan, Firenze, ma attiva nei primi anni 80. Aperitivo DJ set Wombat. A seguire info e dettagli su wombat.noblogs.org. Anche per questa settimana abbiamo concluso gli eventi. Ci non resta che vederci agli eventi. Viva. Viva. Viva. Ciao Wombat. Wombat Wombat.